sopra le nuvole, sotto le lenzuola ti racconterà le favole. Anna non chiederà scusa mai più per i miei momenti di imbarazzo ed impasse. La voce si perde negli occhi tuoi e le emozioni sono troppo intense per parlare di noi. Se avrai fiducia nell'uomo che sarò, imboccherò le maniche, non ti deluderò. Gocce di vento confondono lacrime di realtà e rendono lecita ogni bugia. Pur di averti, giuro non lo so se è stato giusto questo atteggiamento e se io mi pentirò di insicurezza e di malattia.